signor Bacchiglio. Chi è? Sorella Gianmarì, buonasera. Buonasera, buonasera. Solo sì. Quello dice, meglio soli che male accompagnati. Ehi, addirittura. E Bacchiglio, se sentito. Cosa da risette che lo so con Giannelli. Da fa. Allora c'è da fare oggi. Allora molto impegnato. Lo starà operando, no? Non penso, no. Claro, ora di entrare, almeno a salutare, invece ancora non si sente, già è da farato con altra gente, ma è così, dai, se è da farato, se no sarebbe entrato, anche prima di chiudere, cazzo, c'ha ospiti, dov'era la prima cosa, so. Vabbè, quando vuoi entrare già siamo avvisi. Se vuoi entrare siamo qua fino alle 8, dai. Siamo qua fino alle 8, sei solo. Ci vuole un quarto d'ora ancora, so. Sono le 8 meno un quarto, per cui c'è tempo di fare almeno un saluto, va. Facciamo così. E cos'hai combinato oggi? Si è chiamato dal medico che ero lì dalle 10 meno un quarto, quindi so che ci troverai Londres e Vinci. Prego un attimo. Prego il Drecco. Ciao a tutti, buonasera. Sono Marco. Marco Storco, stavo facendo una prova, adesso ho acceso un apparato di fino da un po' staccato, volevo capire insomma se sta funzionando correttamente oppure no. Come mi dicevi? Abbastanza bene. La radio è perfetta e il segnale buono. Ah però, allora, Mimo questo è spento da 4-5 anni, l'ho lasciato un po' così, un po' acceso, vedo che tutto funziona, lì ci sono tutte OK, stranamente non si è danneggiata, è andata bene allora. Gio Maria che c'è con te, ciao, buonasera, Marco Scorpio. Marco, sì, Gio Maria c'è. Comunque di dietro ti porti un'alternata, forse dall'alimentatore. Ok, riprendo. Ciao Marco, buonasera, ben sentito. Confermo, c'hai un'alternata, c'hai di sotto Marco. Ben sentito, riprendi. Buonasera, ma chi è Marco Scorpio? Questo c'è di lui. Troppo scorpio, c'è la tua radio, non ho capito chi è. Ciao Gio Maria, buonasera. Chi è che Claudio ha parlato? Chi è? Mamma mia, Tino, tu sei, con questa radio non ho, sono anche invece, è tutto un po' sciancata, non ti sento bene, tu sei qui. Aspetta un attimo, che ho messo anche io, perché sennò, buonasera, adesso meglio. Capo, adesso è più comprensibile, vabbè qua non so se, magari loro ti possono dire se va meglio o meno, perché questa è una radio di Lano 3, adesso l'ho accesa così, ho visto che funziona, volevo scoprire, quando l'ho spenta anni fa era OK, vedo che anche l'orologio elettronico sta funzionando, ma era da capire se è mezzo defunta oppure se sta funzionando bene. E sicuramente i commessatori qua della zona dell'alimentatore, perché questo funziona al 110, sto usando l'alimentatore americano ovviamente per farla funzionare, magari alimentata direttamente a 13,8, forse non abbiamo questo problemino qua, molto si sente questo disturbo dell'alternanza. Non mi piace quella radio, ti dai, metti a posto qualche cosa perché quasi non si capisce. Capito? Comunque Marco, l'alternata non c'è più, Hai visto Giovanni, magari già così avremmo mandato in trasmissione un po', si è scaldato e qualche componente che non stava funzionando correttamente, adesso va bene, qua addirittura Mi segnava anche i picchi positivi della modulazione. Beh, non è male. Tino, hai visto anche gli altri, troppo amplificata in maniera esagerata e non era comprensibile. Come hai abbassato un po' ha migliorato, però forse potresti ulteriormente ridurre il guadagno. Va bene, allora l'antenna per l'altro amico che abbi pazienza, ma non ho ascoltato il tuo nome, la modulazione la conosco, ma a memoria sai com'è, la vecchiaia carogna, non me lo ricordo. A te l'antenna. Scusate ora, migliorato a questa ora, devo abbassare ancora. No, adesso va meglio. Confermo chi? Secondo te? Sì, lo confermo. Sì, no, già sei tu. Sicuramente, ti spiego Marco, la LC, il Mickey, insomma, che è dietro, quando ho ascoltato la radio deve essere che si è leggermente toccato, si è aumentato. QSL, adesso va bene, si è ritornato tu, bella, amplificata, chiara, squillante, alla grande, dai, molto bene. Allora, vi ringrazio dei ragazzi delle prove, delle ragazze, adesso lascio un po' scaldare, gli metto un carico fittizio e intanto è pronta la cena, lei va per un po' di ore, anzi mi sa che lascio tutta la notte, così si rimettono un po' a posto anche i condensatori. Ciao, buona serata, sempre che non riprenda più tardi per farla viaggiare questa radio. Sì, perché è curioso, si tratta di una World 702, una radio americana degli anni, credo sia degli anni 80 questa, ritengo che sia degli anni 80, adesso non ricordo. Va bene, Giovanni, antenna, buona cena a tutti, grazie dell'intervento, grazie delle indicazioni, ciao Tino, ciao a un altro amico carissimo, Marco Scorpion, rimango un attimo in ascolto e poi vado, lascio acceso la cena. Ok Marco, adesso sei 9:28, la radio è perfetta, per cui tranquillo. Ciao, salutoni casa e ci vediamo alle prossime, buon proseguimento di serata. Vai Tore. Ok, ciao Fra, stammi bene. E anche a Tino adesso già è lui con la radio. Poco fa non era lui. Ciao Marco, ciao. Sì, ripeto, la misurazione del Mickey Gain, adesso sentirete anche una sorta di rumore di sottofondo perché sta succedendo cosa in cucina. E quindi ho spostato la radio, molto sicuramente ho aumentato la radio e non me ne ero accorto. Andave. Prendete la Giammaria. Infatti adesso va bene, sì. Sì. Ma poi cazzo si capiva niente. Ma adesso è andata perfettamente, per cui tranquillo. Comunque buonasera, ben sentito, e come sta il giovane? Giammaria. Oggi l'ho sgridato perché è arrivato tardi qua. Era a fare commissioni, quindi è arrivato un po' tardi. Già fa bene, ultimamente ha avuto una sorta di ematoma nella mano, si è gonfiata, spingendo il motocoltivatore l'ha portato troppo, quindi si è gonfiata la mano, ma si è rimessa a posto, grazie a Dio, sto bene. Tore, quindi mi ascolti bene ora? Fa voglia, caspita, la radio perfetta e il segnale è buono. Vabbè, era un po' anche io, vabbè, io lo accendo spesso, però molte volte con il volume basso, quando vedo lo smitter magari ti ascolto e nel frattempo faccio cosa al PC. E adesso ho colto l'occasione per salutare un amico, non che voi non lo siate per carità, ma a lui lo sento meno volte su queste frequenze, dai, più negli altri, ma non posso, solo il centro di ascolto e basta, quindi. Niente, va bene, riprendetevela. Ok, Fra. Riprenda, signor Giammaria. Ok. Io chiedo a Tom, dai. Chiedo a Tom che mi sta chiamando la signorina qua, per cui ne approfitto, dai. Ciao T, state bene, buon proseguimento, salutami con la persona. Ci sentiamo, dai, buon proseguimento T. Ciao anche a te, tu. Riprendi il tuo chilo, vai. Buon proseguimento. Ok, Gianmarie, ci sentiamo alle prossime. Ok, riprendi Pino. Va bene, Gianmarie, dai. Alle prossimine, buona carica, buon tutto. Va bene, non mancherò a salutarlo, Va bene, tu. Saluto anche a te. Ora che ormai, che dai, così almeno. E questo volevo fare al PC e poi anch'io a causa carica batteria anch'io devo mollare. Niente, dai, ci sentiremo per gli auguri e tutto quanto. Riprendi tu. Ok, Fra, ci sentiamo alle prossime. Ciao Fra. Tino, non Fra. Tino, andate a sbaglio. Vabbè. Fa niente. Ciao, ciao.